Sono fatto quattro belle etichette ieri, erano quattro etichette Mariolo che non ti sono capire, sono quattro belle etichette, quelle con la patatina bella rasata, depilata, depilata, sì, ho basi, c'è americana, americana, dai un attimo. Quattro gatti sui tetti, l'una tra i tradici e l'una un quarto tra gli amici, pochi gatti mischietti, come la metti metti, qui si parla di difetti e per commenti di musica connettiti con gli etti, con gli effetti dai cilindri con i lietti, non mi spiazzi, li smazzi, li scazzi, li piazzi agli addetti, troppe parole, prove di sole sospetti, ma prove su di me no, solo concetti, io fondo notti a notti fonde e tre progetti, ho splendide albe per alibi perfetti, ho sogni fuori dei cassetti che mi fotte, dei fatti, fatti sui fatti, fatti sui detti, che lo ammetti o lo ometti, non mi fotti in effetti, se sei sincero, smetti, se smetti, se, cos'è per sé, pochi prospetti, ma ne ricavi di tempo per dedicarmi, lo ammetti. Ho come la sensazione che ti stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia, in parte mia. Ho come la sensazione che mi stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia. Sinceramente? Io me l'aspettavo, sospettavo, capita quando stai con troppa gente, effettivamente abbaiano quando sbagliano, come pensi questo risolva il fatto che non scompaiono? Oh, bella fibra, ma quanti problemi ti fai? Qua i ragazzi troppo tesi, vedi che poi non si sa mai di come son presi, io ho un sospetto, difficilmente cambia l'aspetto di coloro che non usciranno illesi, intesi, inseriti in due mesi, ingrossi gli intesiti scossi, indossi paradossi e parassiti smossi, oh sì, beh sì, siamo sconnessi, e domani come pensi e come pensi che saremo messi? Messi, come essi, questo mai, ingressi in sbattimento, cerchi messi che non hai, e sbattimento sul cemento, chi ti ha detto cosa c'entro? Sbatti di sgomento, credi a un 15% e su un buon 85 tiraci sopra una riga, fibra, ci si fida di chi ti confida, voci di corridoio che ingoio fino all'infoglio e poi nausea, serve una pausa se non muoio. Ho come la sensazione che ti stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia, ho come la sensazione che mi stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia. Su Tizio o su Caio, il vizio qui è l'abbaio, comizio su ogni indizio ed è l'inizio di un carnaio, ma io non ci sto, poi però tendo l'orecchio, oh, m'han detto, anche a te l'han detto, no però un sospetto, io penso che il sospetto sia un aspetto secondario, quindi aspetto il tuo silenzio per rispetto ogni mio svario, e se sbaglio da buoni amici tu non me lo dici, alle spalle ma felici oppure in faccia ma intristiti, dici, convincimi in crisi bisingastriti, gran parte di quei che ti dicono in fondo non si sa, tempo fa, penso ad oggi, penso a che tempo fa, penso poi al perché quel che fumi te a me non fa, prendo poi per di qua, qua di personalità, persa anche la mia onestà, la professionalità dove sta? Hai il mio indirizzo? Non so, chiamami, anche se non ti ricordi memorizzo, quindi allontanami. Ho come la sensazione che ti stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia, ho come la sensazione che mi stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia. Ho come la sensazione che ti stai perdendo, pretendo spiegazione da parte mia, è che da parte mia quel che sto costruendo, se crolla è colpa in parte mia, in parte mia.